discesa la notte con melodie di canzone e bussa al tuo verone la serenata di amore e le stelle silenziose incominciano a brillare portando la notte la serenata di amore. La luna diventa d'argento quando accarezza il balcone. Vendo ti meno prendo le note della canzone e la notte piano piano scende fino in fondo al cuore. Con lei vengo adornando la serenata di amore. Lasciarli le mie pene qui sotto la tua finestra, cambiar l'indifferenza con un poco di speranza. E va per te solamente questa dolce serenata che composero le stelle e il vento delle montagne. Questa dolce serenata ripeterà le stelle.